Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 21 andando Paolo verso Gerusalemme dopo varie navigazioni. Agabo, profeta, gli predice i mali che patir doveva in Gerusalemme. Ne può essere rimosso dall'andarvi per le lacrime degli amici, estendo pronto a patir anche la morte per Cristo. Arrivato a Gerusalemme, Giacomo lo consiglia a santificarsi insieme con 5 uomini che avevano un voto. E mentre egli ciò faceva, gli ebrei gli mettò le mani addosso, ma è liberato dal tribuno, il quale lo manda incatenato agli alloggiamenti. Ottien però la permissione di parlare al popolo. E allorché distaccatici da essi avemmo fatto vela, andammo addirittura a Coo, e il di seguente a Rodi, e di lì a Patara. E trovata una nave, che passava nella Fenicia, ci imbarcammo, e facemmo vela. E avendo in vista Cipro, lasciatala alla sinistra, tirammo verso la Siria, e arrivammo a Tiro, perché quivi dovea la nave lasciare il suo carico. E avendo trovato dei discepoli, ci fermammo ivi 7 giorni. Questi essendo ispirati, dicevano a Paolo, che non andasse a Gerusalemme. E finiti che giorni ci partivamo, accompagnandoci tutti con le mogli, e i figliuoli sin fuori della città. E piegate le ginocchia sul lido, facemmo orazione. E abbracciatici scambievolmente, entrammo noi nella nave, e quelli tornarono alle case loro. E noi terminando la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide, e abbracciati i fratelli, ci fermammo con essi un giorno. E partiti il di seguente andammo a Cesarea, ed entrati in casa di Filippo Evangelista, ci fermammo da lui. Questi avea 4 figliuole vergini, che profetavano. Ed essendoci trattenuti più giorni, arrivò dalla Giudea un certo profeta per nome Agabo. E venuto da noi prese la cintola di Paolo, e legandosi i piedi e le mani, disse, «Lo Spirito Santo dice così, l'uomo, di cui è questa cintola, lo legheranno così i giudei in Gerusalemme, e lo daranno nelle mani dei gentili». Udita la qualcosa, e noi, e quelli, che eran di quel luogo, lo pregavamo, che non andasse a Gerusalemme. Allora rispose Paolo, e disse, «Che fate voi piangendo, e affliggendo il mio cuore? Concio sia che io per me son pronto non solo a esser legato, ma anche a morire in Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E non potendo persuaderlo, ci chetammo, dicendo, «La volontà del Signore sia fatta». Passati che giorni ci ponemmo in ordine, e partimmo per Gerusalemme. E venner con noi anche alcuni dei discepoli da Cesarea, conducendo seco colui, che ci dovea alloggiare, Masone Cipriotto, antico discepolo. E quando fummo in Gerusalemme, ci ricevettero con piacere i fratelli. E il divenniente entrò Paolo con noi in casa di Giacomo. E tutti i signori si raunarono. E salutati che gli ebbe, esponeva egli una per una le cose, che Dio aveva fatto per suo ministero tra le genti. Ed eglino, udito ciò, magnificarono il Signore, e gli dissero, «Tu vedi, o fratello, quante migliaia di giudei vi sono, che hanno creduto, e tutti sono zelatori della legge. Or essi hanno udito, che tu insegni a tutti i giudei, che sono tra le genti, a separarsi da Mosè, dicendo, che non circoncidano i figliuoli, né vivano secondo le consuetudini. Che è dunque questo? Certamente bisogna, che si aduni la moltitudine, impero che sapranno, che sei arrivato. Fa dunque quello, che ti diciamo, noi abbiamo 4 uomini, che hanno un voto sopra di sé. Prendi teco costoro, e santificati con essi. E spendi per loro, che si radano il capo, e sappiano tutti, che di quello, che hanno udito di te, non è nulla. Ma cammini tu ancora nell'osservanza della legge. Quanto poi a che gentili che hanno creduto, noi abbiamo scritto, determinando, che si astengano dalle cose offerte agli idoli, dal sangue, dal soffogato, e dalla fornicazione. Allora Paolo, presi seco quegli uomini. Il di seguente purificato con essi entrò nel tempio, dando parte del compimento dei giorni della purificazione, sino a tanto che si offerisse per ciascheduno di essi l'oblazione. Ma quando erano sul finire i sette giorni, i giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, concitarono tutto il popolo, e gli miser le mani addosso, gridando, «Uomini israeliti, aiuto! Questi è quell'uomo, il quale insegna a tutti per ogni dove contro il popolo, e la legge, e questo luogo. E di più ha introdotto dei gentili nel tempio, e ha contaminato questo luogo santo. E si mosse a rumore tutta la città, e accorse il popolo. E preso Paolo lo strascinaron fuori del tempio, e subito furon chiuse le porte. E mentre cercavan d'ucciderlo fu avvisato il tribuno della corte, come tutta Gerusalemme era in tumulto. Il quale subito presi seco i soldati, e i centurioni, corse a coloro, i quali visto il tribuno, e i soldati, si ristettero dal batter Paolo. Allora accostatosi il tribuno lo prese, e ordinò, che fosse legato con due catene, e domandò, chi egli fosse, o quel, che avesse fatto. Della turba chi gridava una cosa, e chi un'altra. E non potendo sapere il certo per causa del tumulto, ordinò, che fosse condotto agli alloggiamenti. E quando e fu arrivato ai gradini, convenne che fosse portato da soldati a cagione della violenza del popolo. Imperocché la moltitudine del popolo lo seguitava, gridando, «Levalo dal mondo!» E stando Paolo per entrare negli alloggiamenti, disse al tribuno, «Mi è egli permesso di dirti qualche cosa?» E quegli disse, «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano, il quale né di passati movesti sedizione, e conducesti al deserto 4.000 sicerge?» E Paolo dissegli, «Io sono certamente uomo giudeo, cittadino di Tarso nella Cilicia, città non ignota. Ma pregoti, permettimi di parlare al popolo». E avendoglielo quegli permesso, Paolo stando in piedi sulla scalinata, fece cenno con mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò loro in lingua ebrea, dicendo, note, 21,1, andammo addirittura a Co, e, una delle isole dette Cicladi rinomata tra gentili pel tempio di Esculapio, e di Giunone. Rodi altra isola celebre per il suo colosso Patara città marittima della Licia. 21,4. Questi essendo ispirati dicevano a Paolo, e ci essendo stato rivelato ad essi dallo Spirito Santo quel che dovea succedere a Paolo in Gerusalemme, e non sapendo, come voler di Dio, e del suo spirito era, che egli vi andasse, lo esortavano a non far quel viaggio. Imperocché creder potevano, che a questo fine avesse Dio dato loro quel lume, che avevano delle persecuzioni preparate all'Apostolo. 21,8. Filippo Evangelista. Di cui si parla capitolo 6, 5, 8, 5, 38. Egli è chiamato qui evangelista, cioè predicatore del Vangelo. 21,9. Questi aveva quattro figliuole vergini, che profetavano. Così volle Dio fino dai primi giorni della Chiesa nobilitare la professione della verginità con doni e grazie particolari. Imperocché e esse Girolamo e altri padri non dubitano che lo spirito di profezia fosse concesso a queste fanciulle in grazia della conservata purità. Vedi esse Girolamo, episodio 8, e l'epitafio di Paola dello stesso santo, episodio 78, 21,10. Un certo profeta per nome Agabo. È lo stesso che quello rammemorato nel capo undicesimo. 28, 21,11. Prese la cintola di Paolo, e non è rara nei profeti questa maniera di predire il futuro per mezzo di fatti. Vedi Jerem 13,4, XVI 2,3. 21,12. Quelli che erano di quel luogo. I cristiani di Cesarea. 21,13. Piangendo, e affliggendo il mio cuore? La lezione greca è questa, piangendo, e accordandovi a indebolire il mio cuore, espressione adattatissima a mostrare il tenerissimo amor di Paolo verso i fratelli. Mentre egli, che per nessuna apprensione dei maggiori mali movevasi, si sentiva quasi infiacchire e abbattere per compassione al dolore degli stessi fratelli. 21,16 Conducendo seco colui che ci doveva alloggiare Masone e questo Masone si vede che aveva casa fissa in Gerusalemme e che aveva avuto la sorte di udire e seguitare Gesù Cristo mentre chiamavasi antico discepolo. Egli era nativo di Cipro e tornava in quel tempo a Gerusalemme. Incontratosi in Cesarea con Paolo, gli offerse la sua casa per ospizio in quella città. 21,18 In casa di Giacomo. Giacomo il minore, vescovo di Gerusalemme, il solo apostolo, che allora si trovasse in Gerusalemme, cui esse. Paolo doveva anche consegnare le limosine raccolte per sovvenimento dei poveri di quella chiesa. E tutti i signori si raunarono. Tutto il ceto ecclesiastico di Gerusalemme. 21,20 Tu vedi, o fratello, quante migliaia e il greco, quante miriadi, cioè quante decine di migliaia, lo che spiega anche meglio la prodigiosa fruttificazione di quel granello gittato nella terra e morto sopra di essa. Questa fruttificazione, immensa nel popolo gentile, fu molto grande anche tra giudei della Palestina, benché poco se ne parli in questo libro. L'andata di Paolo a Gerusalemme si pone circa 25 anni dopo la morte di Cristo. E tutti sono zelatori della legge. Vale a dire osservatori zelanti della legge, la quale voleva ritenere insieme col Vangelo. Il decreto fatto dagli apostoli non era se non per i gentili neofiti. Quanto ai giudei, gli apostoli, non tralasciando di insegnare che le cerimonie della legge non erano necessarie per la salute, si guardavano dal condannarle, perché, come dice esse, Agostino, in quanto ad esse la legge di Mosè era veramente già morta, ma non era per anche mortifera. E con saggia economia ispirata loro da Dio tolleravasi dagli apostoli nei giudei l'osservanza delle stesse cerimonie, venerabili presso di essi per la loro istituzione e antichità, e dalle quali perciò non era facile il divezzarli. 21,21 Hanno udito che tu insegni per lettere di quei giudei che avevano dato tanti travagli a Paolo nell'Asia, i quali calunniosamente lo accusavano di biasimare e rigettare tanto la circoncisione che i riti come cattivi e nocevoli a praticarsi, dalla qualcosa erasi tenuto molto lontano l'apostolo. 21,22 Che è dunque questo? Dove va egli a parare questo discorso? E che dei adunque farsi? Impero che quando sapranno che tu sei arrivato, si aduneranno tutti i giudei convertiti per vederti e udire quel che sopra tal materia tu pensi. 21,23 Hanno un voto sopra di sé. Si sono obbligati al voto dei Nazarei, il quale scioglieranno facendosi tosare e offerendo le ostie prescritte nella legge. Vedi Numeror 6,13. Altri intendono di un voto fatto per causa di malattia o di pericolo. Ma la prima spiegazione sembra più vera. 21,24 E santificati con essi. Fatti nazari o con essi, partecipando alla loro buona opera. E spendi per loro, che si radano. Fa la spesa della cerimonia, la quale spesa consisteva nell'offerta d'un agnello, di una pecora e di un capretto. Offerta che facevasi alla porta del tabernacolo e del tempio. Offeriva ancora il nazareo o altre cose descritte nel libro dei numeri. Era un'opera di pietà il contribuire all'adempimento del voto di un nazareo, facendo o in tutto o in parte la spesa occorrente. Esse Giacomo consiglia a Paolo di valersi di questo mezzo per far conoscere, non esser vero, che egli dispregiasse le cerimonie, e per contentare i fedeli della circoncisione. 21,25 Quanto poi a che gentili, e? Altra è, dice Giacomo, la causa dei gentili convertiti, i quali sono interamente liberi dal peso della legge, come noi abbiamo definito. 21,26. Dando parte del compimento dei giorni della purificazione, e ci facendo sapere al sacerdote, qual fosse il giorno, in cui spirava il tempo del voto di Chenazarei, e per conseguenza il giorno, in cui dovevano farsi le offerte, e i sacrifici secondo la legge. Il tempo del Nazareato dipendeva dalla volontà di chi ne faceva il voto. 21,27. Ma quando erano sul finire i sette giorni, dopo l'arrivo di esse, Paolo a Gerusalemme, i giudei dell'Asia. Questi giudei erano venuti a Gerusalemme o per occasione della festa di Pentecoste, come alcuni vogliono, ovvero a solo fine di procurare la morte dell'Apostolo. 21,28. Ha introdotto dei gentili e ha condotto seco nel Tempio, cioè nell'atrio dei giudei, uomini grei, a quali ciò è proibito sotto pena di morte. 21,29. Trofimo Efesio, vedi Act. 20:4-2. Tim 4:20. 21,30. Lo strascinaron fuora del Tempio, e, per ucciderlo liberamente, e non contaminare il luogo santo col di lui sangue. E per lo stesso fine, che il Tempio non venisse ad essere profanato in tempo di tal sedizione, i Leviti, che stavano a guardia delle porte, le chiusero, come dice esse, Luca. 21,31. Il tribuno della corte. Il tribuno, che comandava a soldati romani, i quali si tenevano sempre allerta in una città sì popolata, e inquieta per le occasioni di tumulto, o di sedizione. Questi soldati, i quali sotto il loro tribuno corsero a raffrenare il popolo, non dovevano essere né intorno al Tempio, né molto lontani dal medesimo. Lo che apparirà manifesto a chiunque rifletta sulle parole di esse, Luca. 21,33. Con due catene. Una all'una mano, e l'altra all'altra, Act. 11. 6. 6. 21,34. Agli alloggiamenti. Nella torre chiamata Antonia, dove era il campo delle truppe romane, che stavano in Gerusalemme, la qual torre era il luogo alquanto più rilevato che il Tempio, come si vede dalle parole del seguente versetto. 21,35. E quando fu arrivato ai gradini, e il popolo furioso, veggendo Paolo vicino ad essergli levato dagli occhi, e posto in sicuro, con nuovo impeto tentò di ripigliarlo, onde fu duopo, che i soldati se lo prendesser di peso, e lo portasser sopra la scalinata. Ciò fu tanto più necessario, perché è da credere, che l'apostolo fosse molto malconcio dalle percosse, e dagli strapazzi fattigli da che furiosi per quel poco tempo, che lo ebbero nelle mani. 21,38. Non sei tu quell'egiziano, e di lui parla Eusebio, Ist. 2, 21, Giuseppe ebreo, della guerra giudaica, 2, 12, e altrove. Questi si spacciava per profeta, e raunò una immensa turba di sicari, e di gente scellerata. I sicari furon così chiamati da un certo pugnale, che portavano gli uomini facinorosi sotto le vesti per ammazzare più occultamente e speditamente chi lor piaceva. Questo pugnale chiamavasi Sica. 21,39. Città non ignota. Così Paolo con molta modestia, impero che Tarso era capitale della Cilicia. Ma sua massima gloria sarà in ogni tempo l'aver dato a Gesù Cristo e a noi un tale apostolo. 21,40. Stando in piedi sulla scalinata della fortezza Antonia, fece cenno con mano. Non lo impediva di ciò fare catena, perché era lunga, e tenuta da un soldato. In lingua ebrea. Vale a dire nella lingua usata allora dagli ebrei in Gerusalemme, la quale era in gran parte siriaca.